Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, qualche settimana fa ha fatto molto discutere la decisione dell'amministrazione capitolina di non ospitare le Olimpiadi per le quali si era candidata appunto la città di Roma per il 2024. Quelle Olimpiadi sarebbero state la seconda puntata di un'avventura cominciata 56 anni fa, nel 1960, quando Roma ospitò i Giochi Olimpici in un'occasione che segnò il definitivo rientro dell'Italia nel novero dei grandi paesi occidentali. Quell'anno, il 1960, fu per questo il migliore anno della nostra vita, come lo definisce il sottotitolo del libro di cui adesso vi parlo, di cui è autore Alfio Caruso, e che si intitola appunto 1960, pubblicato da Mondadori, 350 pagine, 18,60 €. Ma il 1960 non fu solo l'anno delle Olimpiadi, ma anche quello di un'altra grande affermazione sul piano internazionale ed economico. L'11 gennaio di quell'anno, infatti, il Financial Times assegnava alla lira l'Oscar delle valute. L'economia in quei mesi galoppava, il PIL cresceva di oltre l'8% dopo crescite del 5% e del 6,6% nei due anni precedenti. Cambiava soprattutto la società italiana con la grande migrazione interna, la scoperta dell'automobile, degli elettrodomestici, l'invadenza della pubblicità, lo sviluppo impetuoso dell'industria. Proprio nel 1960, per esempio, ci sarebbe stato il sorpasso dei lavoratori nell'industria, che avrebbero rappresentato quell'anno oltre il 40% rispetto a quelli dell'agricoltura, poco meno del 30%, e in appena tre anni questo 30% sarebbe diventato appena il 14% del 1963. Questo libro di Caruso esamina questi numerosi aspetti di quell'anno magico che ha segnato la nostra generazione e ha lasciato, come dice Caruso all'inizio del libro, la memoria di un periodo d'oro segnato da energia, da fiducia in un progresso inarrestabile. E a Caruso, che nel 60 era un ragazzino come me, chiediamo di spiegarci i tratti più significativi di quell'anno fortunato. Buonasera ad Alfio Caruso. Buonasera a lei, Caruso. Alfio Caruso, lei insiste in questo libro sul 1960, sull'entusiasmo, sull'energia e sulla passione che esplosero in quegli anni. Che cosa riuscì a innescare questi sentimenti, questa spinta proprio in quegli anni? Credo il venir fuori dalla guerra, il venir fuori dalle sofferenze, il venir fuori dalle distruzioni, il venire fuori dalla povertà e dalla miseria che comunque avevano contraddistinto quella che Mussolini aveva chiamato la grande proletaria. E attraverso il piano Marshall cominciò un'era di ripresa, anche perché eravamo sotto lo zero, quindi non era neanche, se vogliamo, difficile, e va dato atto alla generazione dei nostri genitori che in 10 anni, magari attraverso un po' di corruzioni, tangenti, compromessi, accomodamenti, tutto quello che vogliamo, ma in 10 anni ricostruirono un paese che nel 1945 era distrutto per il 70%. E quale fu a suo parere l'elemento più importante, la molla che fece esplodere questa vitalità italiana? La voglia di star meglio, la voglia di affacciarsi al futuro, la voglia di andare in vacanza, la voglia di comprare prima la lambretta e poi la macchina, la voglia di comprare il televisore, il frigorifero, quello che era ritenuto lo chic dell'eleganza all'epoca e del, se vogliamo, dell'essere abbienti, lo scaldabagno. E poi ci sono tanti aspetti che lei approfondisce in questo libro. Uno, per esempio, è la musica, la cultura pop, in particolare la musica. Adesso sentiamo questi due protagonisti della musica di allora tornati in auge adesso, proprio in queste settimane. Amami, perdonami in mente, sì, con la tua vita nella mia, ricominciando da qui. Amami, inevitabilmente sì, senza ragione né pietà, perché nessuno è così. Adriano Celentano e Mina. È molto emblematico il fatto che dopo 56 anni siamo ancora ad ascoltare questi miti di allora che sono miti di oggi. Oggi sono dei guru, per usare una terminologia moderna. Allora diventarono, oltre che fenomeni artistici, fenomeni di costume, perché soprattutto Mina, la quale insegnò alle ragazze a ribellarsi, a inseguire la luna, la sua famosa tintarella di luna, a ritenere possibile il poter acchiappare tutti i sogni, mentre Celentano da parte sua dette quel tocco di spregiudicatezza che era già cominciata, se vogliamo in maniera surreale, con Modugno nel 58 con Volare, ma quella che era stata una, ed è rimasta una grandissima canzone, divenne poi con Celentano viceversa un modo di porsi nei confronti della vita. Celentano all'epoca addirittura fu accusato di istradare i giovani italiani sulla moda degli inglesi, degli aboriti peddy boys inglesi, sono definizioni che oggi e categorie ci fanno sorridere, ma all'epoca costituirono anche elemento di contrasto ideologico. Ma il fatto che siano ancora così forte la loro influenza dimostra che siamo più dominati dalla nostalgia, oppure abbiamo cessato, abbiamo rallentato nella nostra capacità di innovare anche dal punto di vista culturale? No, dimostra secondo me la vitalità di quell'anno del 60, dimostra che fu davvero un anno unico sotto certi aspetti ripetibili, perché anche l'anno in cui muore Fausto Coppi, quando io lavoravo in Gazzetta, un referendum stabilì che il più grande campione italiano, se vogliamo il campione italiano più amato del Novecento, era stato proprio Coppi, e Coppi aveva simboleggiato con la sua bicicletta, che rappresentò il primo mezzo di locomozione per tantissimi italiani dopo la guerra, la voglia dell'Italia di arrampicarsi sulle montagne più aspre per farcela, per scollinare, e Coppi che ridà l'orgoglio a questo paese andando a vincere all'estero prima ancora della vittoria di Bartali del 48. E comunque fu Coppi, assieme alla squadra del grande Torino, quella che perì a Superga, a lucidare, ripeto, l'orgoglio che era uscito e giustamente, se vogliamo, frantumato dalla Seconda Guerra Mondiale. Anche dal punto di vista sentimentale Coppi segnò una rottura in quell'anno. Beh sì, senza dubbio, anche se vogliamo le vicissitudini che avevano accompagnato gli ultimi anni di Coppi, il suo aver lasciato la moglie, l'aver messo su famiglia con la Dama Bianca, con quella che fu chiamata la Dama Bianca, Giulio Chini, e loro addirittura furono arrestati con un'irruzione notturna della polizia, furono condotti in tribunale, dovettero affrontare un processo senza le traversie coniugali ed extraconiugali di Coppi. Il comune senso del pudore italiano sarebbe rimasto indietro ancora per parecchio tempo. Viceversa, le vicende affrontate da Coppi costrinsero l'opinione pubblica a cominciare a porsi il problema di che cos'era la famiglia, di che cos'erano i rapporti, di che cos'erano le relazioni. E questo è un aspetto che lei affronta anche quando parla della censura, che era ancora molto forte in quegli anni, in quei mesi. Addirittura la censura arrivò a colpire Antonioni con l'Avventura. Adesso ad Antonioni si può rimproverare tutto, è il re dell'incomunicabilità, ma censura proprio no. Viceversa, in quell'anno chi pagò uno scotto durissimo fu un capolavoro del cinema italiano come Rocco e i suoi fratelli per la regia di Visconti, e addirittura furono sottoposti a una censura preventiva il procuratore di Milano, una losca figura della magistratura italiana che si chiamava Spagnolo, che poi sarebbe stato anche al centro del caso Sindone e di tante altre traversie della nostra Repubblica. Nonostante poi la censura avesse concesso il via libera al film di Visconti, intervenne con un atto di imperio che era soltanto un arbitrio, ma in quegli anni purtroppo andava così, anche se lì Nicola Dolcevita dovette affrontare ostacoli uno via l'altro, ma ostacoli che gli furono frapposti dalla Chiesa e dalla Democrazia Cristiana, perché il 60 credo che rimanga un anno irripetibile per il cinema italiano, perché in un breve volgere di mesi, quando nasce il 60, nelle sale stanno ancora proiettando due capolavori come La Grande Guerra e Il Generale della Rovere. Poi uno via l'altro arrivano La Dolce Vita, Rocco e i suoi fratelli, L'Avventura, La Lunga Notte del 43, La Ragazza con la Valigia, Tutti a Casa e La Ciociara che chiude l'anno. Un anno così non ci sarà mai più, e quindi non è un caso se quell'anno furono venduti 780 milioni di biglietti cinematografici. Oggi non si arriva neanche a 100 milioni, e fu incassato l'equivalente di 1 miliardo e 400 milioni di euro. Oggi incassare in un anno 100 milioni è un sogno. E il 1960 fu un anno difficile dal punto di vista politico, l'anno di Tambroni. Sì, perché Tambroni, che era uno spregiudicato avvocato della provincia italiana, che è un grande navigante della DC, come si era visto in quel primo quindicennio, pur di tenersi stretto l'incarico che aveva avuto come capo del governo, l'aveva avuto per sue presunte simpatie di sinistra, che non esistevano, poi cercò viceversa di legare a sé il movimento sociale italiano, che ancora era messo all'angolo, e quindi l'aver convocato a Genova, città medaglia d'oro della resistenza, il congresso del MISI, dette la stura a tutta una serie di manifestazioni pubbliche che poi sfociarono in cruenti scontri di piazza. Ci furono dei morti a Reggio Emilia, ci furono dei morti a Catania, ci fu una controversa carica dei carabinieri addirittura a Roma, a Porta San Paolo, dove 17 anni prima tanti romani e tanti militari italiani si erano immolati per cercare di bloccare l'occupazione tedesca della capitale. E se vuole, un aspetto paradossale di questa vicenda fu che a guidare quella carica dei carabinieri era il capitano Raimondo D'Infeo, che due mesi dopo avrebbe trionfato alle Olimpiadi di Roma nel salto ostacoli dell'equitazione vincendo la medaglia d'oro. Le Olimpiadi furono l'epilogo, l'apice di quell'anno magico. Sì, perché tutti abbiamo negli occhi, ancora meno tutti quelli che siamo vecchi, che abbiamo fatto i capelli bianchi, la volata di Beruti nei 200 metri, il bianco che batté tanti atleti di colore quotatissimi. Abbiamo ancora negli occhi la grazia di Wilma Rudolph, e anche se all'epoca non esisteva il gossip, perché nessuno aveva inventato il termine e quindi si parlava al massimo di pettegolezzi, ci fu il tentativo sfrontato e sfrenato di tanta stampa mondiale di favorire una sorta di fidanzamento tra Beruti e Wilma Rudolph, perché furono immortalati mano nella mano. Poi fecero anche una passeggiata fuori dal villaggio olimpico, un gentile cioraio e una rosa, tutte e due, e certi giornali italiani si sbizzarrirono a ipotizzare quale figlio o figlia poteva nascere da un'eventuale unione dei due, quale straordinario campione si sarebbe potuto allevare. Faceva tutto parte di un sogno. E Beruti, per quella medaglia d'oro inaspettata, ebbe un premio che fu l'equivalente di 16.000 euro, e siccome gli avevano dato anche una 600 in premio, lui la vendette per aggiungere il ricavato alla somma necessaria ad acquistarsi un Alfa Romeo. Ma è anche l'Olimpiade di Bikila, lo straordinario sergente dell'esercito etiope, che corse a piedi nudi nella magia dei fori imperiali di quella notte illuminata soltanto dalle torce. Insomma, Roma ebbe una, non che ne avesse bisogno, ma ebbe una legittimazione internazionale strepitosa, e siamo anche a cavallo del famoso periodo di Hollywood sul Tevere, perché molta cinematografia venne poi a girarsi. D'altronde i produttori di Cleopatra hanno sempre detto che si convinsero a girare Cleopatra a Cinecittà dopo aver visto la magia delle Olimpiadi, che era anche, fu anche l'Olimpiadi di un diciottenne Cassius Clay, l'Olimpiadi anche di Benvenuti, una Olimpiade in cui per fortuna non c'erano paure di terrorismo, non c'erano paure di manifestazioni, di proteste, di contestazioni, in cui l'adesione di Roma ai giochi fu totale, ma Roma ne ebbe in cambio un lancio mondiale senza precedenti. Grazie ad Alfio Caruso, autore di 1960. Buona serata. Buona serata a voi e grazie a voi. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci sentiamo fra pochi istanti. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Si è conclusa qualche giorno fa la fiction della RAI dedicata ai medici. A chi voglia approfondire e soprattutto portarsi avanti con la conoscenza di personaggi che incontreremo nel prossimo ciclo già programmato, vi segnalo il libro di Giulio Busi che ha pubblicato Lorenzo dei Medici, una vita da magnifico, con Mondadori, 366 pagine, 25 euro. Il libro è dedicato a uno dei personaggi più affascinanti della civiltà italiana, la cui nascita rappresentò una grande consolazione per il fondatore della dinastia, Cosimo, quello che abbiamo visto nelle puntate di queste ultime settimane. Lorenzo de' Medici, detto poi il Magnifico, sarebbe stato un grande politico, un autentico protagonista delle vicende italiane dei suoi anni, fatte di guerre, di alleanze, di tradimenti, come spiega Busi. Non si capisce Lorenzo fuori dalla famiglia e degli equilibri o disequilibri cittadini, né si può sapere cosa sia Firenze senza il racconto dell'ascesa dei Medici. Anche il Cinquecento sarà età medicea in maniera diversa, con una signoria finalmente palese, conclamata. Firenze, aggiunge, sopporta i Medici, li usa, se ne approfitta, li subisce e loro sfruttano e servono alla città. L'età di Lorenzo sarà quella dello splendore, una pienezza venata da contrasti e da crisi, certo, ma ancora vigorosa. E infatti Lorenzo de' Medici fu poi un grandissimo, uno straordinario mecenate, uno degli artefici del Rinascimento, il periodo che viene qua illustrato anche con magnifiche immagini. E un libro sul Cinquecento medicio è quello di una scrittrice di romanzi storici, Patrizia De Bicche van der Noot, L'eredità medicea, pubblicato da Edizioni Parallelo 45, 304 pagine, 12 euro. Qui il protagonista è un discendente dell'altro ramo dei Medici, quello che fa capo a Lorenzo, il figlio di Cosimo il Vecchio e quindi zio di Lorenzo il Magnifico. Questo personaggio si chiama anche lui Lorenzino, Lorenzaccio, e nel 1537 ucciderà il signore di Firenze, che è Alessandro dei Medici, favorendo l'ascesa al trono di Cosimo dei Medici, che per affermare il proprio potere dovrà vedersela con molti complotti qui descritti con partecipazione e suspense dall'autrice. Un'altra grande dinastia italiana possiamo ricordare andando a Ferrara a visitare la mostra organizzata a Palazzo dei Diamanti in occasione del 500° anniversario della prima edizione dell'Orlando Furioso, il poema di Ludovico Ariosto, poema dedicato al cardinale Ippolito d'Este. Gli Este erano appunto i signori di Ferrara. La mostra si intitola Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi e presenta opere e oggetti che ispirarono il poeta o che illustrano il suo poema. La mostra è aperta fino all'8 gennaio, è curata da Guido Beltramini e Adolfo Tura. Il catalogo è pubblicato dalla Fondazione Ferrara Arte Editore. E in questa occasione ci possiamo riaccostare all'Orlando Furioso, uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi, col libro di Sergio Zatti, Leggere l'Orlando Furioso. L'autore è un docente di critica letteraria dell'Università di Pisa, il libro è pubblicato dal Mulino, 196 pagine, 16 euro. E l'autore sottolinea fin dalle prime righe come il libro e la vita di Ariosto siano legate a una città, Ferrara, e a una corte, quella estensa, e spiega come l'Orlando Furioso sia un poema assai meno armonioso di come ci hanno insegnato a leggerlo al liceo, ma che è anzi espressione di una forte irrequietudine. Chi voglia accostarsi all'Orlando Furioso troverà le edizioni di Rizzoli, di Garzanti, di Feltrinelli, tutte a 22 euro, poi ce ne sono due di Einaudi, una a 26 euro, una a 120 euro, nonché la versione per ragazzi di Italo Calvino pubblicato da Mondadori, 12 euro. Una famosa estense, Isabella, troviamo nel libro di una scrittrice amata e popolare, Edgarda Ferri, che ha scritto La casa di Isabella, è pubblicato da Treluna Edizioni, 96 pagine, 12 euro. Questa è una sorta di biografia e anche di guida romanzata, una formula eccellente per farci riscoprire un grande personaggio e luoghi particolari dell'arte italiana, in particolare in questo caso lo studiolo che si era fatto costruire Isabella d'Este. Lo possiamo rivedere quel luogo grazie anche alle foto di Toni Lodigiani. Quello studiolo è un elemento che caratterizza il ruolo che ebbe Isabella d'Este. Pensate che fu l'unica donna che in quel periodo si poté permettere di costruirsi, di farsi costruire appunto un gabinetto, uno studiolo come tanti altri signori, pensiamo a quello di Urbino. Isabella d'Este è vissuta tra il 1474 e il 1539, era andata sposa a Francesco Gonzaga, il signore di Mantova, e Isabella era appunto la sorella del cardinale Ippolito, e con Ariosto ebbe una grande stima e considerazione, del resto ricambiate dallo scrittore. L'ambiente che si fece costruire lo Studiolo è unico, non solo appunto per la particolarità di essere stata l'unica donna che se ne fosse fatta costruire uno, ma soprattutto perché quello Studiolo diventò il simbolo appunto del ruolo fondamentale che questa donna svolse nella cultura dell'epoca, un ruolo sottolineato dalle righe che adesso ascoltiamo. Sarà una spesa grande, l'avverte Ghisi. E con questo? Che aspettino gli stuccatori, i tappezzieri, i decoratori, gli antiquari e tutta la compagnia degli artisti. È o non è lei la donna che ha trasformato la corte di Mantova nel simbolo stesso della bellezza? È o non è additata Isabella d'Este come la figura più colta e più raffinata di questo secolo intriso di feroce e affamato di potere? Le sue collezioni di monete, medaglie, cammei, statue greche e romane non hanno paragoni. Per riunire intorno a sé letterati, scienziati, musicisti, artisti, novellatori, conversatori, ha fondato l'Accademia Culturale di San Pietro. La sua biblioteca contiene libri rarissimi, codici antichi e moderne edizioni delle opere di Dante, Petrarca, Boccaccio. Ha contrattato fino allo spasimo con Aldo Manuzio le costosissime copie stampate su pergamena e miniate. Ha insegnato ai suoi nani a leggere e a raccontare le storie dei cavalieri medievali e degli imperatori romani. Domani ricorre il centenario della morte di un celeberrimo esponente di un'altra grande dinastia, in questo caso europea, gli Asburgo. Il 21 novembre del 1916 infatti moriva l'imperatore Francesco Giuseppe, il penultimo imperatore d'Austria, che troviamo in due biografie, uno di Albert von Margutti, che fu un generale di Fiume, aiutante di campo dell'imperatore. Il libro si intitola Francesco Giuseppe, pubblicato da Castelvecchi, 222 pagine, 22 euro. L'altro è di Eugenio Kettel, che invece di Francesco Giuseppe fu il fedelissimo cameriere personale che lo assisteva 24 ore al giorno e che lo fece per 20 anni. Le sue memorie si intitolano Ho servito l'imperatore d'Austria, curato da Carlo Giovanella, 264 pagine, 20 euro, ed è pubblicato da MGS Press, un editore di Trieste, il quale ha pubblicato anche il libro Testimonianze su Francesco Giuseppe, curato da Rossana Crisci e Bernard Macek, 136 pagine, 16 euro. E ricordo che avete ancora qualche giorno di tempo per visitare le grandi mostre che su Francesco Giuseppe sono state organizzate a Vienna, nella Reggia di Schönbrunn, dove Francesco Giuseppe morì, L'uomo e il sovrano, al Museo delle Carrozze Imperiali di Vienna, Rappresentanze e Modestia, al Museo del Mobile, Feste e Quotidianità, e al Castello di Niederweiden, Caccia e Tempo Libero. Poi un'altra mostra della Sala Magnifica della Biblioteca Nazionale Austriaca, l'imperatore eterno Francesco Giuseppe, e infine una al Belvedere, l'imperatore e il Belvedere. Abbiamo parlato di Mantova, dopo questa insolita guida su un luogo particolare di Mantova visto attraverso una sua protagonista, vi segnalo altre due insolite guide, queste non raccontate, ma che ci fanno scoprire aspetti insoliti di Venezia e di un luogo vicino a Pisa. Il primo è di Barbara Colli, Giuseppe Sacca, Conosci Venezia? Tutto quello che devi assolutamente sapere, pubblicato da Edizioni Clichy, 15 euro, 268 pagine, e il secondo è di Diego Casali, Marina di Pisa, una guida con la prefazione di Bud Spencer, Edizioni ETS, 142 pagine, 12 euro. E a questo punto... Il confettino. Ricordo qui un altro centenario che cade dopodomani, è il centenario della morte di un grandissimo scrittore caro anche ai ragazzi, Jack London, e lo ricordiamo qui con la trasposizione di uno dei suoi libri più famosi, Zanna Bianca, ad opera di Geronimo Stilton. Questa è pubblicata da PM, 218 pagine, 15,50 euro. Poi sempre in edizione per ragazzi di Zanna Bianca c'è l'edizione curata da Guido Sgardoli per Einaudi, 76 pagine, 8 euro, con l'illustrazione di Stefano Turconi, e quella tradotta da Anna Banti per Giunti, 320 pagine, 8,50 euro. E per gli adulti che vogliono accostarsi a London, ricordo i titoli più recenti: Jack London, Le strade dell'uomo, fotografie, diari e reportage, curato da Alessia Tagliaventi e pubblicato da Contrasto. E qui troviamo le foto di Landon accompagnate dai suoi estratti. Questo libro ha 196 pagine, costa 16,90 euro. E uno dei reportage dello scrittore fu dedicato ai bassi fondi di Londra e il popolo dell'abisso, riproposto da Mondadori, 274 pagine, 14 euro, e curato da Mario Maffi. Infine, di Zanna Bianca troviamo l'edizione completa assieme al richiamo della foresta e altre storie di cani, pubblicate da Newton Compton, 334 pagine, 4,90 euro. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, e Pietro Lacorti, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.